Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di 42 La Risposta. In studio oggi con voi Monica e Maria. Ciao Mari! Ciao Monica, ciao a tutte e tutti. Oggi nella nostra trasmissione parliamo di desideri inespressi e lo facciamo attraverso le pagine di un bellissimo racconto di Kate Chopin, Storia di un'ora. Kate Chopin, scrittrice creola della Louisiana, è considerata una delle progenitrici del femminismo del XX secolo, nonostante, pensate, sia morta nel 1904. Già, ma leggendo le sue opere non è difficile capire il motivo per cui appunto è considerata una progenitrice del femminismo. È vero, Maria, nel raccontare le vite normali di donne che lottano quotidianamente per ritagliarsi un proprio spazio e una propria identità in un mondo maschile e patriarcale, che Chopin ha anticipato le scrittrici femministe di quasi mezzo secolo. Infatti, è Storia di un'ora ne è l'esempio lampante. Sebbene sia stato pubblicato nel 1894, è ancora oggi di grandissima attualità e conserva ancora la sua dirompente rivoluzionarietà. Vi anticipiamo intanto che presto, qui a 42, vi parleremo anche di un'altra raccolta di racconti che finora inediti, è stata appunto pubblicata soltanto nel 2017, che si intitola Dopo l'inverno. Editori Passigli, e contiene alcuni racconti di cui non vediamo proprio l'ora di parlarne insieme a voi. Però Monica, oggi torniamo al nostro racconto, Storia di un'ora. Sì, siamo di fronte a una short story, ossia un racconto molto breve in cui la scrittrice statunitense condensa il repentino susseguirsi di stati d'animo e di pensieri della protagonista, la signora Mallard, nell'arco temporale di un'ora. Il racconto inizia così. Sapendo quando Mrs. Mallard fosse afflitta da problemi cardiaci, la notizia della morte del marito le venne data con tutte le precauzioni del caso. Dunque, alla protagonista viene comunicato il decesso del marito in un incidente ferroviario. La sua prima reazione è quella di abbandonarsi a un pianto a dirotto tra le braccia di sua sorella, ma a un certo punto decide di andarsene da sola nella propria camera da letto, non vuole farsi seguire da nessuno, ed è proprio a questo punto che inizia davvero la storia. Sì, perché mentre Louise Mallard, abbandonata su una comoda poltrona, guarda dalla finestra e ascolta i suoni che provengono da fuori, dall'esterno, e qualcosa dentro di lei comincia a cambiare. Lei lo sente e cerca di impedire a quell'emozione che la invade di farsi spazio, di arrivare alle sue labbra, ma non ce la fa. Maria, leggiamo questa parte del racconto. Sì, bellissima. Come si abbandonò per un istante, una parola sospirata le scappò appena dalle labbra semiaperte. Se la ripeté ancora e ancora, sospirando, libera, libera, libera. Lo sguardo fisso, vacuo e pieno di terrore che ne seguì, le fuggì via dagli occhi. Rimase sicuro e lucido. Il polso cominciò a battere velocemente, il sangue a scorrere caldo, rilassandole ogni millimetro del corpo. Non smise di chiedersi se fosse o non fosse mostruosa gioia quella che la prese. L'alta e chiara percezione della cosa le permise di scartare l'ipotesi come triviale. Sapeva bene che avrebbe pianto ancora se avesse visto quelle morbide e dolci mani incrociate nella morte, quel viso che per lei non s'era mai risparmiato in amore, fisso e grigio e morto. Eppure, oltre quell'amarezza, poteva scorgere una lunga sequela di anni ancora da venire che le sarebbero appartenuti interamente, e verso di essi aveva aperto e spalancato le braccia in segno di benvenuto. Eh sì, Mari, si fa spazio dentro di lei una sensazione nuova, e un qualcosa in cui non aveva mai potuto sperare, la libertà, la possibilità di vivere per se stessa. Nel racconto emerge l'amore del marito nei suoi confronti, come abbiamo ascoltato dalle parole che ci hai appena letto, e l'amore di lei per lui. Qualche volta, più spesso no, recita il racconto. Ma non è questo il punto. L'idea di sentirsi finalmente padrona di se stessa la inebria, e attraverso quella finestra, sono le parole del racconto, stava assorbendo l'elisir stesso della vita. Sì, Monica, e più avanti si legge: non ci sarebbe stato nessuno per cui vivere negli anni a venire, avrebbe vissuto per se stessa. nessuna potente volontà a piegare la sua, con quella cieca persistenza con cui uomini e donne credono di avere il diritto di imporre il proprio volere su una creatura amica. Nessuna potente volontà a piegare la sua. Ecco, con pochissime parole l'autrice ci fa comprendere il senso di libertà di Louise. Ed è importante notare che la scrittrice accomuna uomini e donne. Il matrimonio può essere soffocante sia per gli uni sia per gli altri. Monica, io direi di assaporare anche noi il senso di libertà della signora Mallard ascoltandoci un bellissimo pezzo di Nina Simone, che è un medley di due canzoni, Ain't Got No e I Got Life, dal musical Hair. È un pezzo nato in tutt'altro contesto, ma la parte finale ci sembra azzeccatissima. Ho la vita, ho la mia libertà, ho la vita e desidero tenermela. E ascoltiamocelo. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away, I've got life. Bentornati in studio sulle note di Ain't Got No, interpretata da Nina Simone, che abbiamo scelto parlando del racconto Storia di un'ora di Kate Chopin e della sensazione di libertà che la protagonista di questo racconto, la signora Mallard, prova dopo aver appreso che suo marito ha perso la vita in un incidente ferroviario. E come dicevamo, la sensazione di libertà che pervade la giovane vedova, alla quale lei stessa inizialmente non si concede di cedere, che all'inizio sembra accogliere con terrore, la raggiunge simbolicamente attraverso la finestra aperta della sua camera da letto, dalla quale la vede pezzetti di cielo azzurro, sente cantare gli uccelli, sente l'odore della pioggia, insomma, quasi un correlativo oggettivo di un cambiamento interiore ormai in atto. E che Chopin ci fa notare che in quel momento Louise sospende in qualche modo il pensiero razionale ed è proprio questo che le permette di provare quello che le norme sociali non le avrebbero mai permesso di provare, no? Questa gioia, questo senso di libertà. Attenzione però, la donna non è felice per la morte del marito, come ad una lettura superficiale potrebbe sembrare. Louise è felice perché sa che la sua vita, da quel momento, le apparterrà interamente, ne potrà disporre a suo piacimento e in totale autonomia, e prega perché la sua vita possa essere lunga, ricordando che solo il giorno prima aveva temuto la stessa cosa. Temeva che la sua vita potesse essere lunga. Però mi chiedo, Monica, quante volte reagiamo a qualcosa in un certo modo perché ci si aspetta da noi esattamente quella reazione? O viceversa, insomma. E quante azioni o reazioni pensiamo di svolgere autonomamente e invece magari sono il frutto di un condizionamento sociale implicito? E quanto può essere potente questo condizionamento sociale al quale siamo tutti sottoposti? Aggiungerei che probabilmente la signora Louise non aveva mai neanche desiderato di separarsi dal marito, perché il pensiero della separazione non era contemplato dall'educazione sociale e sentimentale che aveva ricevuto sin dalla tenera età. Abbiamo cercato a lungo, in realtà, il momento in cui il divorzio nella Louisiana cattolica e creola è diventato legge, però quando internet ci si mette non c'è verso di trovare quello che cerchi, no? Certo, perché internet è in mano a una casta massonica che complotta contro la libera circolazione delle informazioni. Sì, vabbè. Complotto! Complotto! Vabbè, tornando a ciò di cui stavamo parlando, la prima domanda che ci eravamo poste era: se è vero, come dicevano i latini, che l'ex creat mores, cioè che la legge crea il costume, crea le tradizioni, se agli inizi del Novecento, come pensiamo, il divorzio non era legge, probabilmente la nostra protagonista non si era mai nemmeno posta il problema. Il desiderio può nascere solo dalla sua concreta possibilità di realizzazione? In effetti, Monica, è una bella domanda. Però, in ogni caso, che fosse legge o no, sicuramente le convenzioni sociali sarebbero state comunque più forti della legge stessa. Ed ecco che infatti il desiderio non si fa neanche spazio in Louise. Questo spazio si crea soltanto alla notizia dell'inaspettata improvvisa dipartita del caro marito. Mari, d'altra parte, io credo che le convenzioni agiscano come una forza del tutto analoga ancora oggi nei piccoli centri, nelle piccole realtà del nostro paese e non solo, purtroppo. Infatti è vero. Però Monica, sta per esserci il colpo di scena finale del racconto. Ve lo diciamo già, faremo uno spoiler sfacciato. Ma prima ci ascoltiamo un altro bellissimo brano di Nina Simone, quale migliore di Feeling Good per cercare di metterci nei panni della nostra giovanissima vedova. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. È Era Nina Simone, il pezzo Feeling Good ci accompagnava alla scoperta delle emozioni della protagonista del racconto di Kate Chopin, Storia di un'ora. Eh sì, le parole sono It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me and I'm feeling good. È una nuova alba, è un nuovo giorno, una nuova vita per me e mi sento bene. Ma Monica, nuovo giorno e nuova vita, niente, perché tutta questa sensazione di libertà, tutta questa ritrovata felicità, gioia di vivere, dura un'ora. E da qui il titolo, Storia di un'ora. Mi sa che lo spoiler è in arrivo. Esatto, ci abbiamo pensato in realtà molto, se rivelarvelo oppure no. Però senza l'ironia del finale, il racconto perderebbe gran parte della sua bellezza. Ebbene, mentre Louise vive il suo febbrile trionfo e si muove per la casa come la dea della vittoria, Brantley Mallard, suo marito, entra dalla porta di casa. Colpo di scena? E così è un ingresso assolutamente ordinario, normale, lui sporco per il viaggio, con in mano l'ombrello. E la povera Louise non ce la fa e muore. Quando arrivò il medico, gli dissero che era morta di cuore, di quella gioia che uccide. Ovviamente noi sappiamo che non si tratta della gioia di aver rivisto il marito in perfetta salute, bensì la perdita della libertà tanto assaporata, sebbene per poco tempo. Ovviamente il medico non riesce a pensare a qualcosa di diverso da quello che è previsto dalle norme non scritte del comportamento sociale. Non può essere morta che dalla gioia di aver rivisto il caro Brantley. E certo, perché il medico non mette neanche lontanamente in discussione la causa della morte. Ma qual è questa causa? I desideri di Louise, scoperti e infranti, la uccidono. Un po' come, ti ricordi il caso di quella povera giraffa? Non ridere. Monica. La giraffa che qualche anno fa fuggì da un circo a Imola e che morì per troppa felicità dopo aver assaporato la vera libertà. Dai, c'era la foto di questa giraffa felice che correva per le strade. No, non me la ricordo, però posso visualizzare. Insomma, è come la nostra protagonista che pensava di essere libera e felice nel circo della vita che la società le aveva costruito intorno, finché non scopre il vero significato della libertà e della felicità. La giraffa, fino allora, era vissuta in un circo, pensava che la libertà, la felicità fosse quella di stare lì. Nel momento in cui esce e vede il mondo, muore di crepacuore. Però lei muore nel momento in cui la perde la felicità, no? La signora Louise, mentre invece la giraffa nel momento in cui la prova. Comunque sia, al di là delle battute, in conclusione Monica vorrei dire che se da una parte quello che disciplina i nostri desideri e appunto l'aspettativa sociale in cui siamo inseriti, come dicevamo prima, contemporaneamente anche noi ne siamo esecutori, oltre che vittime. Sì, sì. Esprimiamo spesso un giudizio, quindi anche un potere sui comportamenti delle persone che ci stanno intorno. E al di là delle leggi, questo agisce in modo molto più profondo, diffuso e spesso subdolo. E per la nostra protagonista, la morte del marito la porta per la prima volta fuori da questa dinamica. Libera dall'essere moglie, può pensare di avere una vita diversa. È uno strappo a quel tessuto di aspettative e giudizi che informano la sua vita. Quindi con l'augurio di riuscire a sottrarci sia dal ruolo di giudicati che da quello di giudici, vi salutiamo con un ultimo pezzo della grandissima Nina Simone. I wish I knew how I would feel to be free. Vorrei poter vivere come ho voglia di vivere. Vorrei poter dare tutto ciò che ho voglia di dare. E vorrei poter fare tutte le cose che mi piacerebbe fare. Vi aspettiamo qui mercoledì prossimo, alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.10. Ciao! Ciao! Thank you. I knew how it would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me, yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed. I'd be starting anew. I wish I could be like a bird in the sky. Don't leave me. How sweet it would be to find that I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. I wish I could share all the love that's in my heart. Wish I could break all the things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. And you'd see, you'd agree, everybody should be free. 'Cause if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky. How sweet it would be. I could find that I could fly. Soar to the sun. Look down and see me. I know. Yes, I know. Oh, yeah. It's moving now. I know, got news for you, I already know. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me. I'm just...